Il primo obiettivo è di proseguire il lavoro fatto fin qui e di proseguirlo con la stessa voglia e con i risultati che tutti si sperano. Il mio primo obiettivo è quello di riuscire a coinvolgere il più alto numero di cacciatori possibile in questa idea di associazione, una grande risorsa per i cacciatori, poter dire la propria e coordinare le varie istanze che i cacciatori delle varie categorie hanno e poterlo fare attraverso un'associazione come RC, riuscire a far percepire questo al più alto numero di calciatori è sicuramente un obiettivo che non solo a breve ma anche nel lungo termine avrò e avremo come direttivo dell'associazione.